Il bdud del frutto sta nel desiderio di ottenere realmente i tre kaya. I tre kaya sono gli aspetti dell'essere illuminato, il Buddha che si riflette in tre modi differenti allo scopo di beneficiare gli esseri senzienti. Dicevamo, il bdud del frutto sta nel desiderio di ottenere realmente i tre kaya, poiché ciò consiste di orgoglio caratterizzato da desiderio. È un bdud. La natura del corpo, della voce e della mente è lo stesso conseguimento spirituale dei tre kaya. Così si insegna. Perciò non vi è buddhità da ottenere all'esterno se si abbandona l'idea che tutto dipende da se stessi e si cerca all'esterno, pur praticando per 10 milioni di kalpa non si avrà alcun ottenimento. Non si cerchi nulla, non si compia nulla, si stia liberamente nello stato naturale. Non avere alcuna speranza è il supremo Jichod. Senza i limiti delle speranze e delle paure umane, tagliando la corda dell'attaccamento, in realtà, dov'è il Buddha? Esiste una classificazione in quattro tipi di bdud, ma essi sono tutti compresi nei bdud che producono il giudizio, poiché il giudizio entra nel campo della concretezza. Esso è il bdud che possiede concretezza, così viene insegnato. Quando si ha una comprensione profonda che il giudizio è la radice del desiderio e dell'aggressività, compresi nel campo della concretezza, così come ad esempio si comprende che il fumo dietro un muro è prodotto da un fuoco nascosto, nell'eliminare il giudizio ci si libera dall'attaccamento. Non si blocchino le visioni fenomeniche. Avendo una comprensione profonda che nei bdud che possiedono concretezza non esiste radice, sicuramente essi saranno eliminati. Così come l'illusionista, pur vedendo le immagini, non prova attaccamento per esse. Perciò che la corda del giudizio sia tagliata. Essendo stata tagliata, non esiste il tagliare. Eppure, se si comprende profondamente che non vi è radice, non è possibile l'attaccamento. Così ci si libera nello spazio della Dharmata, la legge naturale. È importante andare oltre il concetto che non vi è nulla da considerare.